Tutto quello che io voglio essere è quello che potevo essere con te. Tutto quello che io voglio vivere è quello che potevo vivere con te. Tutto quello che io voglio essere è quello che potevo essere con te. Tutto quello che io voglio vivere è quello che potevo vivere con te. Prendi le mie mani e baciami, portami dove ti porterei. Dimmi cose da non crederci, portami fuori di me, dentro di noi. Da non crederci, portami fuori di me. Tu non sai cosa può fare.